Ed eccoci ritrovati dopo la breve pausa estiva. Ben ritrovate e ben ritrovati. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale. E questa è 25 O'Clock. In versione dimezzata. Perché ci abbiamo il professore disperso su qualche monte. Quindi non vi aspettate selezioni ammorbidite. Perché il veleno si accumula. E ricordiamo i contatti della radio. Il telefono 0649 1750. Il sito della radio www.ondarossa.info. L'email della redazione ondarossa@ondarossa.info. E le nostre email della trasmissione 25 o'clock@ondarossa.info. O fantasma@ondarossa.info. Dove potete contattarci per farci sapere se esistete. Come può mancare il saluto al mitico Banana? Personaggio leggendario e mitologico. E ricordiamo che la radio non campa d'aria. Radio che ha bisogno del vostro sostegno. E quindi per sottoscrivere il conto corrente postale è il 6180 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 5600185, San Lollo. Potete sostenere la radio anche attraverso il sito della radio. E quindi cliccando su Sostieni. dove potete effettuare una sottoscrizione tramite PayPal. (0649) 1750, telefono che trilla in questo momento tingendo di rosso. Tingendo di rosso la stanza qui. Noi cominciamo subito le danze. Cominciamo subito a scaldare la notte di Radio Onda Rossa. Da un disco del 2010, uscito su Relapse Records. Questo lavoro degli Eye on Fire. Disco intitolato Snake for the Divine. Ci ascoltiamo la sesta traccia, Fire, Flood and Plug. Sanction annihilation. Ci siamo ascoltati anche gli obituary da Frozen in Time, disco del 2005, con la seconda traccia On the Floor. Già sotto ascoltiamo dall'ultimo lavoro dei Death, The Sound of Perseverance. Ultimo disco dei Death, disco testamento dopo la morte del cantante Chuck Schuldiner, avvenuta nel 2001. E questa è la sesta traccia, Voice of the Soul, che riascoltiamo da capo. Thank you. E siccome che qui da queste parti è 25 o'clock, siamo profondamente convinti che ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici può fare solo che bene. Diffondere vibrazioni incazzate. Dopo i Death ci ascoltiamo da Punishment for Decadence, discone dei Coroner, e questa è Masked Jackal. raccomando, Nico, che sei all'ascolto, questa era per te. Live like an angel, die like a devil. Ed ora dall'ultimo disco di Danzig, che è Death Red Sabbath, uscito nel 2010. Ci andiamo ad ascoltare la quinta traccia. Anche se la tentazione di continuare a sentire Venom è molto forte. Oh! Che poi è facile, perché è un esercizio molto semplice. Ponete la mano sinistra e la mano destra davanti a voi, chiusa a pugno. E poi in contemporanea tirate fuori l'indice e il mignolo. ...1969, questo è il primo disco dei Coven. Witchcraft destroys minds and rips souls. E ci siamo ascoltati la settima traccia, Wicked Woman. Quindi da Danzig, che ha portato un'ondata un po' occulta, ci andiamo ad ascoltare sempre intorno a quegli anni lì, 1970. Loro sono i Black Widow, da Sacrifice. Thank you. wrote centuries ago. The clavicles of Solomon is nothing by their side. It lays bare secret arts that stood the ravages of time, and practices once more exposed yet everyone should know. On horseback ever wait. The talisman of Seth was mine, the horseman did my bidding. Adesso ci andiamo ad ascoltare dal disco del 1990 che è The Eye. Già sotto va la terza traccia che è Barn, che riascoltiamo da capo. Everybody questi sono gli svedesi Candlemass. Dal loro, a mio avviso, sottovalutato album del 1992, che è Chapter 6. Ventitré e quarantotto minuti primi. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza. E questa è 25 O'Clock. Sotto già squagliatissimi. Type O Negative con la loro versione di Paranoid. Che rimettiamo da capo. made of steel. Oh no, no. Can you help me feel love, love? Cause I'm not made of steel. Era la versione di Tapo Negative di Paranoid. Pezzo che in origine è di 2 minuti. La versione di Tapo Negative è di 7 minuti. E questo era un pezzo proposto da Checco. E visto che l'estate è alla fine della luce all'inizio delle tenebre, one, two. Quindi questa era Ride dal disco Eternal Mirror del 1993, loro sono i Cathedral. E adesso facciamo un salto in Italia. Che è pur sempre mezzanotte e sei minuti. E ci andiamo ad ascoltare i Death Sess. E questa è Night of the Witch. Yeah. E dopo di SS rimaniamo in Italia con i Tiresia Raptus. Dal loro primo disco del 2012. Uscito su Blood Rock Records. Ci ascoltiamo la sesta traccia, che è Guardiano della Soglia. latebre del tempo. Thank you. è sempre uscito per la Bloodrock Records, quest'ultimo lavoro dei Doomraiser. E da Mountain of Madness ci siamo ascoltati Like a Ghost. E ci spostiamo dall'Italia, andiamo in Estonia. I gloriosi fasti di una civiltà sepolta. Loro sono Smoke. Thank you. Mezzanotte 38. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come ci capita spesso da queste parti, andiamo a finire sempre le trasmissioni. In atmosfere dilatate. Something's bad for your ear. Perché qua a 25 o'clock dilatiamo il tempo. Il tempo lo rubiamo. But mine is a nice person. I like him. I know of a very nice dental assistant. She's always very. Ed abbiamo rubato il tempo anche questa notte. Love is a big thing. E quindi le trasmissioni in diretta per questo 4 di settembre giungono al termine. E quindi vi lasceremo in compagnia della compagna automatica Zara. Sometimes it's not so bad to live life a little dangerous. What do you say? Trasmissioni che torneranno in diretta domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa. And when love turns. Giornale radio ore 13. Visionare la trasmissione sul cinema alle 14. Il ritorno di Attica Blues domani ore 16. La Esquina del Sol. Ore 17 con Marta. poi proseguire con Profondo Rosa 18:30. Venti e quindici, Allegro con Fuoco. Dalle ore 21 la replica di In Noctibus Panis. Del nostro Fagiolino. Per poi chiudere alle ore 22 con Apostasia. Il nostro saluto più caro va a coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Ci ascoltiamo la prima traccia del volume 1 di Swamp Sessions. Vi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. So, thank you, Mr. Drone Ring. It was nice to talk with you. Thank you, milk for tea. And by the way, huh? Where's my fucking breakfast? Dreams under a communist moon.